Sono le ore 18.09 di venerdì 13 ottobre e mi trovo a passeggio per via nazionale, così uscendo dalle nuove mostre del Pala Expo, quella di Don McCallin e quella di Boris Mikhailov, entrambi fotografi, sicuramente importanti, però insomma sicuramente si capisce l'impronta del nuovo direttore dell'azienda speciale Pala Expo, che è un fotografo. Ok, uscendo da questa mostra torno verso casa, decido di prendere almeno in parte i mezzi pubblici e rifletto sulla condizione attuale di questa città, che secondo me in questo momento è una metafora perfetta del mondo in cui ci troviamo, un mondo in cui la prospettiva delle sorti progressive, sia di matrice capitalista sia di matrice socialista, entrambi comunque di matrice illuminista, mostra il fianco, ecco, per usare il termine più gentile che mi viene. Praticamente nulla, nessuna delle certezze che entrambe le visioni ci avevano venduto si sta minimamente materializzando e anzi regredisce. Ci sono delle città che sono brave, diciamo, a nascondere questo, magari dietro una facciata visibile solo a chi se lo può permettere. Penso alle capitali della penisola arabica, no? E all'incredibile circostanza per cui alcune città, anche italiane, importanti, sembrano voler replicare quel modello, accodandosi al criterio cielo più lunghista del grattacielo. Roma è una città assolutamente piatta, sotto questo profilo praticamente non è possibile costruire nulla di più alto della cupola di San Pietro, in compenso abbiamo i nostri grattacieli sdraiati alti un chilometro come il Corviale, che appunto è un invito a sdraiarsi, se ci pensate, invece ad ambire verso traguardi inarrivabili o arrivabili solo per qualcuno. Il Corviale riprende, diciamo così, questo skyline basso, frammentato, irregolare, imprevedibile, tipico di Roma, che tra l'altro nasconde i suoi mille skyline dietro colli reali o improvvisati. E tutto questo chiaramente si inserisce nel cinismo con cui la città guarda al suo stesso ruolo istituzionale con grande disincanto. Adesso, per esempio, siamo governati da una sorta di fascismo strisciante che però non riesce ad alzare la testa molto in alto, cioè al massimo si riesce, per esempio, appunto, a programmare una mostra di un bravo fotografo, Boris Mikhailov, qui al Pala Expo, che però sembra quasi rispondere all'unico criterio rilevante, cioè appunto quello di raccontare tutto quello che non ha funzionato del progetto, del grande progetto sovietico della rivoluzione rossa, quasi a voler raccontare attraverso una parte un ipotetico tutto. È una, diciamo, forma abbastanza difensiva di rappresentazione della propria utilità per quelli che sono gli schemi di potere attuali, non che accadesse niente di meglio a parti invertite, per carità. Però magari uno si aspetta, dopo tanti anni, no, che magari che vi sia qualche manifestazione un po' più coraggiosa anche di quello stesso, di quella stessa visione del mondo che dovrebbe contrapporsi a quella che per anni è stata definita dominante. E quindi in questa città sotto questo profilo sicuramente pavida, nel senso che non sperimenta, non provoca, non ci mette alla prova. Anche questa volta abbiamo dovuto pagare per assistere alla comfort zone di qualcuno, fermo restando che, come mi è capitato di dire di recente a Pisa, non esiste peggiore comfort zone di quella di chi può stabilire cos'è una comfort zone per tutti gli altri.